Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci state ascoltando alle 6.45, buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail alla quale indirizzare le vostre domande, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il blog, una nuova forma di comunicazione ormai da oltre un anno che potete avere come il mio blog, si chiama Guardie o Ladi e lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore oppure attraverso un motore di ricerca. Allora, spesso si criminalizza, molto spesso ingiustamente, il ruolo dei dipendenti pubblici e in un momento in cui la crisi si fa sentire e il doppio lavoro va comunque condannato, noi abbiamo deciso di partire da un caso di cronaca accaduto in Calabria per capire come le regioni, in questo caso proprio l'istituzione regione, controlla i propri dipendenti. Cosa fa per evitare appunto che ci siano degli illeciti arricchimenti, perché ricordiamo che il dipendente pubblico deve essere fedele al suo mandato, alla sua missione e quindi non può avere altri incarichi. E poi anche un aspetto che non va dimenticato è quello che molto spesso questi doppi lavori o incarichi ex istituzionali vengono svolti in nero, quindi con un danno anche alle casse dell'erario, e poi lo vedremo segnatamente per la regione Calabria. Allora, per parlare di questo, noi abbiamo innanzitutto chiamato a interloquire con noi il dottor Michele Camisasca, che è responsabile del personale della regione Lombardia. Buongiorno e grazie per il suo intervento, Camisasca. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come detto, noi vogliamo capire. Intanto, per capire, voglio chiederle, in Regione Lombardia avete avuto dei casi di dipendenti, tra virgolette, infedeli che svolgevano doppi lavori? Guardi, devo dire che noi da tempo abbiamo attivato una serie di attività di controllo per quanto riguarda, diciamo, la presenza dei nostri collaboratori. Per rispondere subito alla domanda, parlando di una platea di circa 3.000 collaboratori, io devo dirle che qualche caso noi l'abbiamo ravvisato e l'abbiamo tempestivamente sanzionato. Ecco, questo vi fa ovviamente onore. 3.000 collaboratori, suppongo che lei si riferisca al personale della Regione Lombardia. Esatto. Ecco, collaboratori non... a tempo indeterminato. A tempo indeterminato, certamente non sono pochi e non saranno facili ovviamente anche da controllare. E allora le chiedo quali strumenti mettete in campo appunto per verificare la fedeltà, diciamo così, dei vostri dipendenti. Vale, due punti. Uno, il controllo degli accessi. Secondo, la responsabilizzazione dei dirigenti. Sul primo punto devo dire questo, che Regione Lombardia fin dal 1990 ha introdotto badge e tornelli all'ingresso e in tutte le sedi. Io ho visto che in qualche pubblica amministrazione si sta arrivando nel 2008 e nel 2009. Ecco, Regione Lombardia dal 1990 ha introdotto questa disciplina in tutte le sedi e l'abbiamo poi a poco sempre migliorata, sempre facendoci aiutare dal web e dall'elettronica, tant'è che oggi ogni dirigente in tempo reale può sapere chi è entrato, chi è uscito, anche se non è strettamente nei suoi uffici, perché noi abbiamo molte sedi evidentemente, certo, anche molte sedi sparse sul territorio, ma noi tramite questo sistema di rilevazione delle presenze, diciamo alle 9.30, quando inizia l'orario obbligatorio per tutti, possiamo sapere chi è entrato, chi non è entrato e se c'è qualcuno che per caso non è entrato, non avendo chiesto prima l'autorizzazione. E per quanto riguarda invece un aspetto, mi sembra molto importante, quello della responsabilizzazione dei dirigenti, c'è da fidarsi oppure, come dire, magari il dirigente anche per amicizia o per vincoli, diciamo così, affettivi, magari è anche disposto a chiudere un occhio e non fare fino in fondo il suo dovere? Ecco, su questo noi siamo molto, vorrei dire, severi, nel senso, ed è un po' la politica del personale che soprattutto in questi anni di presidenza Formigoni in qualche modo è sempre stata valorizzata, cioè una fiducia nelle persone prima di tutto, però un controllo nel massimo rispetto delle norme che ovviamente devono essere tutelate, dalla privacy e tutto quanto, però una responsabilizzazione nel senso che anche ogni piccolo comportamento scorretto va sanzionato. Ecco, Le vorrei fare anche un'altra domanda. Tutto quello che lei ha descritto, diciamo così, lo ha descritto nel momento dell'ingresso e nella responsabilizzazione dei dirigenti. Le chiedo però questo, ma nel momento in cui termina l'orario di lavoro, quindi uno sveste idealmente la casacca di dipendente della Regione Lombardia, torna a casa e magari vuole mettersi a fare il muratore improprio, ecco lì che cosa accade? Avete giurisdizione? Potete intervenire? Che cosa succede? La disciplina normativa è molto precisa, nel senso che noi dobbiamo intervenire ogni volta che ci siano delle attività impossibili, anche teorico, conflitto di interesse con l'attività della pubblica amministrazione, tant'è che le incompatibilità sono sia assolute che relative e i dipendenti possono anche farsi autorizzare delle attività. E infatti, diciamo, e infatti quello che lei dice ha fatto bene a ricordarlo. Nel frattempo ci ha raggiunto Liliana Frascà, che è l'assessore al personale della Regione Calabria. Buongiorno e benvenuta, Frascà. Ma buongiorno a lei. Allora, come stavo dicendo prima con Camisasca, che è responsabile del personale della Regione Lombardia, siamo partiti da un fatto di cronaca accaduto un po' di tempo fa. La Guardia di Finanza, che ha accertato 1 milione di euro illecitamente percepiti da dipendenti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Calabria, appunto, per attività extra istituzionale, il doppio lavoro. E abbiamo sentito da Camisasca quelli che sono, diciamo così, le politiche messe in campo per impedire che ci siano i furboni o i furbasti, a seconda di come vogliamo definirli. E allora è giusto chiedere a lei, Frascà, come la Regione Calabria sta operando per evitare che ci siano doppi lavori con doppio danno per la regione stessa e anche per l'erario, perché sono soldi molto spesso non dichiarati. Prego, Frascà. Intanto devo dire che gli episodi riguardano un'azienda ospedaliera. Noi come facciamo? Noi prima di tutto devono richiedere a noi il permesso per esempio insegnare qualche giorno all'università, in giorni in cui in genere queste cose ci pervengono qualche volta da parte di qualche dirigente. Per il resto, quindi, i dipartimenti non possono assolutamente dare permessi. Prima questione. Seconda questione, noi abbiamo già in atto, stiamo facendo una convenzione con gli ordini professionali, con l'Agenzia delle Entrate e con insieme a noi facciamo una convenzione, perché così possiamo fare anche gli incroci. Certamente, perché quindi anche gli ordini professionali si fanno garanti del fatto di non permettere che dipendenti pubblici possano lavorare e quindi prestare altri lavori. Ma anche con l'Agenzia delle Entrate, infatti stiamo discutendo, perché noi da quando ci siamo noi alla Regione Calabria, intanto c'è un controllo sulle presenze che prima non c'era. Non c'era da ben 12 anni. E quindi adesso invece c'è proprio il controllo, nel senso che sappiamo le persone che vanno, che non vanno, perché c'erano purtroppo anche problemi di questo tipo. Ecco, quanti dipendenti ha la Regione Calabria, assessore Frascà? 2048 adesso, dopo la legge 34 che ha mandato molti dipendenti insieme alle competenze delegate alle province. Noi abbiamo 2048. Ho capito. Ecco, stavo chiedendo prima a Camisasca della Regione Lombardia se fate anche, cioè se loro fanno anche un intervento di controllo successivo poi all'orario di lavoro, perché comunque sia c'è anche un obbligo assoluto o relativo di prestare un doppio lavoro. Ecco, voi da questo punto di vista vi siete attrezzati o per il momento è importante intanto impedire che ci sia qualche furbone che non entra proprio negli uffici regionali? Noi da quello che sappiamo oggi, con i controlli che facciamo, perché se uno fa un doppio lavoro, molto spesso magari nel passato il fatto che non ci fossero controlli né all'entrata né all'uscita né sullo straordinario e così via, probabilmente consentiva di fare il doppio lavoro. Certo. Invece questo oggi diciamo che comunque diventa molto più difficile, molto più complicato. Diventa anche più complicato perché ai dirigenti dei dipartimenti abbiamo chiesto che qualsiasi richiesta fatta da dirigenti della Regione Calabria debba venire direttamente al personale, perché poi il personale può fare, a cominciare dall'Agenzia delle Entrate, con gli ordini i controlli necessari. Beh, questo tra l'altro, noi abbiamo sul sito della regione cose che non sapeva né chi dirigeva, né quali servizi, né quali settori e così via. Oggi anche questo è chiarissimo, nel senso che sul sito ci sono i vari dirigenti della regione, perché in genere capita più con i dirigenti questa questione. Assolutamente, e va dato atto, io lo visito spesso il sito della regione Calabria, terra che è spessissimo oggetto delle mie inchieste. Devo dire che effettivamente il sito della regione Calabria è fatto molto bene, sia quello della giunta che quello del consiglio. La stessa cosa devo dire per la regione Lombardia, in verità. Allora, a questo punto io ringrazio tanto Michele Camisasca, che è il responsabile del personale della regione Lombardia, quanto l'assessore Frascà, assessore al personale della regione Calabria. Li ringrazio per i loro interventi. Abbiamo sentito Lombardia e Calabria uniti, diciamo così, idealmente nel controllo nei confronti dei dipendenti infedeli, cioè coloro i quali fanno i furboni e vanno a prendersi un doppio lavoro. Dico grazie in regia a Fabio Cantadori, in studio a Francesco Di Bruno e Laura Fagin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.